ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. Dunque, Burroughs e Dick non hanno mai scritto un romanzo a quattro mani. Se lo avessero scritto William Burroughs e Philip Dick, se lo avessero scritto, direi che avrebbero immaginato quello che stiamo sperimentando nella primavera del 2020, la proliferazione del coronavirus in una società al limite del collasso ambientale, psichico e finanziario. Non dimentichiamo che la società planetaria non è entrata in una condizione difficile in seguito all'esplosione del coronavirus, no. Era già da prima ai limiti del collasso. Sul piano ambientale la cosa era del tutto evidente. La serie di catastrofi che si sono verificate nell'anno 2019 è impressionante. D'altra parte, l'economia mondiale era sostenuta da un costante intervento di rilancio finanziario pagato dai lavoratori e dai contribuenti, perché altrimenti quella macchina si sarebbe fermata da un pezzo e si sarebbe adeguata alla condizione di stagnazione secolare alla quale è destinata. Inoltre, il collasso psichico era imminente e lo si poteva capire da molti segnali disseminati nel comportamento, ma soprattutto segnalati dall'arte, dal cinema. Pochi mesi prima dell'esplosione dell'epidemia, alcuni eventi cinematografici importantissimi avevano segnalato che il punto limite è stato raggiunto. Le antenne sensibili di alcuni grandi registi hanno percepito una sorta di vibrazione patologica. Il film di Ken Loach, Sorry We Missed You, è la cartografia delle condizioni lavorative entro cui il collasso psichico diviene inevitabile. E il film di Toddler, Joker, racconta l'enorme diffusione della sofferenza psichica estrema in una società al limite dell'esplosione di rivolte psicotiche. Parasite, di Bong Joon-ho, inoltre, ha messo in scena la frenetica ricerca di sopravvivenza in un mondo nel quale ogni strato superiore schiaccia e seppellisce gli strati inferiori finché un'epidemia di violenza non sconvolge ogni gerarchia. Si trattava dunque di una società che da molti punti di vista era al limite del collasso. A quel punto è giunto un agente biosemiotico che ha provocato finalmente il blocco, la paralisi, il silenzio. Non è forse così che iniziano d'altronde i processi di mutazione? Non è forse a partire da eventi che non hanno coerenza col quadro esistente, che non sono interpretabili in termini razionali? Insomma, non è forse a partire da eventi significanti che iniziano le trasformazioni profonde, irreversibili della società, cui la volontà non può opporsi, cui la politica non può opporsi e di fronte a cui il potere non ha armi? Questa mutazione contiene tutti gli elementi di un racconto di Philip Dick, ma anche molti degli elementi concettuali che emergono dalle opere di Burroughs. Il virus agisce come un ricodificatore. Il virus biologica ricodifica anzitutto il sistema immunitario degli individui, poi delle popolazioni. Ma il virus opera poi delle traslazioni di campo, anzitutto il salto dalla sfera biologica a quella psichica, l'effetto di paura, distanziamento. Il virus modifica la reattività al corpo dell'altro, agisce sull'inconscio sessuale. Lo abbiamo visto bene negli anni dell'AIDS, come un virus possa modificare profondamente la disponibilità erotica e quindi la solidarietà affettiva tra le persone. In secondo luogo, si verifica una diffusione mediatica del virus. L'informazione è saturata dall'epidemia, l'attenzione pubblica polarizzata, paralizzata, ma al tempo stesso si mette in moto una sensibilità di tipo nuovo. Il passato viene percepito in maniera differente e soprattutto il futuro è sconvolto. Il passato della connessione perpetua apparirà probabilmente domani come una memoria di solitudine e di ansia, e la dimensione online sarà forse percepita come uno dei sintomi della malattia. Questo circuito bio-info-psichico a carattere mutageno deve essere compreso, elaborato, perché questo è l'unico modo per poi stabilire, inventare, creare le modalità cognitive che ci permettano di superare la soglia, perché su una soglia ci troviamo. Cos'è una soglia? Diciamo che la soglia è il passaggio dalla luce al buio, ma anche talvolta il passaggio dal buio alla luce. La soglia è il punto su cui si verifica quello che Grigory Bateson chiama processo scismogenetico, non una rivoluzione, non un nuovo ordine politico, ma l'emergenza di un nuovo organismo che si scinde dall'organismo vecchio. Perché questo processo scismogenetico si possa svolgere in maniera non troppo dolorosa e soprattutto in maniera cosciente, occorre un lavoro di elaborazione collettiva che si svolge attraverso segni, gesti linguistici, suggerimenti subliminali e convergenze subconsce. È propriamente il campo per la poesia, per quella attività che modella nuovi dispositivi di sensibilità. Mi pare di avere notato che negli ultimi tempi c'è stata un'esplosione letteraria. Non parlo delle banalità scritte da cretini come Alessandro Baricco sulla Repubblica, ma dell'immensa mole di elaborazione scritta, fotografica, musicale, che si sta verificando in forma frammentaria, sporadica, disseminante, insomma rizomatica, lungo i circuiti della rete, internet, di cui abbiamo parlato così male in questi ultimi anni, rivela nella presente occasione anche la sua potenza solidale, aggregativa, liberatoria. A cominciare dai post che leggo in Facebook o dai messaggi che leggo in qualche mailing list, questa qualità raffinata, o piuttosto questo sforzo di raffinamento, sembra emergere. È ovvio, la gente ha molto più tempo a disposizione e, non potendo andare al bar per chiacchierare con gli amici, naturalmente sta davanti al suo computer e digita, cioè non digita, scrive, perché questa è la cosa interessante. Forse avendo più tempo si sta lì a pensare al modo di raccontare un episodio minuscolo che è accaduto sotto casa, o un evento colossale che si è visto in TV, letto sui giornali. Milioni di persone stanno registrando frammenti del loro tempo sulla soglia. Fanno piccoli film, racconti per parole o per immagini. Stiamo tessendo l'ordito del cosmo che può diventare riconoscibile oltre la soglia del cosmo che si separa scismogeneticamente dalla forma morente, dalla trappola caotica delle regole che tenevano insieme il mondo, distruggendolo. È in corso una ricerca collettiva su vastissima scala, una ricerca che ha carattere psicoanalitico, politico, estetico, poetico. Quella che si è verificata negli ultimi mesi è una profondissima lacerazione del senso dell'agire, del produrre, del vivere. Non è solo una questione medica, naturalmente. I fondamenti stessi della civiltà che abbiamo ereditato, o piuttosto che abbiamo subito, ma di cui anche abbiamo goduto, sono in questione. Continueremo ad accettare tagli alla spesa pubblica? Continueremo ad accettare che il traffico automobilistico renda le città irrespirabili? Continueremo ad accettare che enormi energie vengano spese per il sistema militare e così via? Ma anche continueremo ancora a guardarci obliqui, come siamo costretti a fare dalla mascherina e dai guantoni e dalla paura? Continueremo a baciare sulla bocca una persona che abbiamo conosciuto un'ora fa dopo un reciproco delizioso corteggiamento? Nella lacerazione estrema che si è verificata nel tessuto del senso si è messa in moto la macchina di scrittura di un immenso poema scismogenetico. La sua intenzione inespressa è produrre la forma armonica della mutazione, assimilare il ritornello virale che induce mutazione, concatenarlo con altri ritornelli individuali di piccolo gruppo, ritornelli di vaste folle, ritornelli di corpi sociali capaci di superare la soglia dell'oscurità e di riscrivere il programma informatico e quello poetico dell'attività sociale, perché la scrittura alla fine può essere attività cosmopoietica, l'energia che rende possibile attraversare la soglia.